Buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi è una giornata nera per il mondo del basket. Ci lascia un'autentica leggenda. E per leggenda intendo leggenda scritta a lettere maiuscole a questo giro. Sì, perché per gli amanti di questo giochino, non quello che passa alla televisione adesso, se ne va forse il secondo miglior pivot tutti i tempi alle spalle di quel mostro sacro chiamato Kareem Abdul-Jabbar. Riposi in pace, Bill Walton. Buongiorno a tutti. Nuovamente buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Move to Groove, una palla a due triste, grazie per questa epigrafe che tu hai riportato. Saluto anche Paolo Onofri qui con noi. Chi è stato l'attore di tutto ciò, che è Pietro Rossi? Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti. Sei stato l'attore nel senso che ieri sera, già serata un po' complicata per motivi di organizzazione familiare, arriva breaking news, tra l'altro termine che conosco poco, di quello che è successo: è morto Bill Walton. Tra l'altro io non lo sapevo, già sofferente da tempo di una bruttissima malattia che è andata a peggiorarsi, e ieri la scomparsa del grande centro, da UCLA fino a essere scelto in NBA, a portare due anelli. Ma di questo parleremo nella seconda parte, perché di Bill Walton vorremmo parlare innanzitutto per le ascoltatrici e gli ascoltatori che magari non sono appassionatissimi come noi di vero basket, ma che secondo me dovrebbero sentire, ascoltare le caratteristiche di quello che è stato chiamato il grande rosso, e non solo per il colore dei capelli, no? Abbiamo l'idea del cestista, dell'atleta che non è esattamente così intellettuale, attento, no? Bill Walton è stato scrittore, è stato cronista, attento alla cultura, attento all'ecologia, vicino ai diritti civili, in maniera attivista e in maniera molto presente per il movimento di pace, ne ha subito anche le conseguenze, ne parleremo. Comunque io direi di dare attenzione al Bill Walton uomo, Pietro. Allora, sul Bill Walton uomo si può dire tanto, c'è questa bella locuzione negli Stati Uniti che dicono larger than life, più grande della vita, perché sono questi personaggi grandi che appunto fanno tanto, e lo fanno più che bene, lo fanno con un bello spirito. Bill Walton rappresenta secondo me un personaggio positivo nonostante le contraddizioni. Uno dei primi sportivi a parlare per esempio del concetto di depressione, perché Bill Walton ha subito diverse operazioni chirurgiche, e ciò nonostante è stata una voce per diritti delle minoranze. Si è preso diverse strigliate al college, dove ovviamente poi, considerati anche i risultati sportivi, si sono ben guardati da cacciarlo o quant'altro. Ma appunto si è impegnato per i diritti dei lavoratori. Se non sbaglio, lui scioperò insieme a dei minatori nel 72-73. Appunto, uno in prima linea per quelli che avevano meno. E tra l'altro, per tutto ciò, Bill Walton è uno dei personaggi che nei primi anni di NBA, uno degli sportivi che viene intercettato dall'FBI. Sì, anche questo lo metto come nota di merito. Sì, no, esatto, cioè, una medaglia sul petto. È una medaglia. Durante una manifestazione pacifista viene arrestato. Questa è un'altra particolarità e una dichiarazione importante al momento del suo arresto, che scrisse al presidente Nixon: la sua generazione ha rovinato il mondo, la mia sta cercando di risollevarlo. Per quanto riguarda il denaro, beh, il denaro per me non è niente, non può comprare la felicità, e io voglio essere felice. Sono parole di Bill Walton. Diciamo che adesso sarebbe coi ragazzi a manifestare, sì, secondo esatto. me. Ecco, questa immagine che il suo spirito sia assolutamente presente. Alcune particolarità di lui come uomo, oltre che caratteristiche veramente devastanti per quanto riguarda gli infortuni. Il nemico, se vogliamo, per quanto riguarda il suo percorso sportivo, è stato principalmente uno: una fisicità portata all'infortunio. Ha subito non so quanti interventi chirurgici, ha saltato circa 800 partite su 1140 in NBA. Allora, io parlo sempre di un dream team legato al periodo di rivoluzione, è un dream team dall'86 in avanti, parlando tra normalizzazione, quindi in seguito. In nessuno dei due come centro compare Bill Walton. A me dispiace, mi piange il cuore, sicuramente avrà una menzione d'onore, però ha giocato troppo poco, ce lo siamo goduto veramente troppo poco un giocatore come Bill Walton, ma quello che ha lasciato resta comunque sempre, come ho detto più volte, non solo sul parquet ma anche come uomo. Una grande passione per la musica, sì, lui ha... grande fan dei Grateful Dead, che né per me né per Willie sì, non sono il nostro gruppo esatto. preferito, però tanto di cappello, grandissimo fan anche di Bob Dylan, tra le gag che riguardano un personaggio, perché poi Bill Walton è un personaggio molto giocoso, molto ironico. Sì, lui andava... sempre sorridente lui. Esatto, con quei bellissimi sorrisi finti americani con cui vedi il dente che è proprio scolpito al millimetro. Lui, ne parlavamo prima di andare in diretta, appunto, tendeva ad andare in prima fila per i concerti di Grateful Dead, no? Esatto, e tende a essere un uomo tra i 2,12 e i 2,15 con le scarpe, immagino, e quindi ripagava il biglietto ai poveracci che dietro di lui si dovevano non godere, ma appunto dovevano ascoltare il concerto. Eh sì, perché la presenza di Bill Walton, e questo è un messaggio che Bill Walton dà, e mi unisco a lui, ai diversamente alti, ai concerti spesso ci tirate cartacce, avete imprecazioni contro di noi al cinema. Allora, noi alti tendenzialmente siamo estremamente educati e civili, molto spesso ai concerti vedo subito le espressioni, no, dico tranquillo, tanto io sulla sedia mi sdraio, diventa tipo una chaise longue, ma così ti fai mal la schiena, non importa. Lo vediamo entrambi, hai pagato come me, quindi è giusto che tu abbia la possibilità di vederlo, nonostante la mia deformazione fisica. Bill Walton faceva di più, pagava il biglietto. Bill Walton aveva anche altri strumenti economici, mettiamola così. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the dude a man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Nel movimento di protesta per i diritti civili è stato fermato anche dalle forze dell'ordine John Wooden, allenatore conservatore di UCLA. Ti puoi immaginare che lui predicava sempre: mi raccomando, l'ordine, la pulizia, i capelli corti. Lui aveva questa chioma rossa che arrivava oltre le spalle, legata da fascette multicolore, per cui insomma non esattamente con il regolamento di John Wooden segnato sul comodino, no? All a friend can say is, ain't it a shame? E il paradosso, ma ne parleremo in campo, la perfezione. Ti immagini, no? Uno genio e esregolatezza, no? Solo genio. No, no, esatto, mai un movimento fuori posto, preciso. Buongiorno Mutu Groove, addio al grande rosso, un vero pivot come da significato della parola perno, ma oltre il cestista è stato una grande persona, impegnato in tante cose, fai tanti assist lassù. Signori, anche i figli dei fiori avevano i loro sette piedi. Penso, ma che io lo metto lo stesso secondo tutti i tempi nel mio personale taccuino. Pensa se ne avesse giocate un po' di più di partite. Sì, sì, ma è, concordo pienamente. Beh, come centro bianco, ma della tecnica dopo la pubblicità, perché ho tante cose da dire. Intanto chiedo a Pietro di ricordarmi anche questo messaggio: fai tanti assist lassù, perché sarà un innovatore per il ruolo del pivot. Tracking, Grateful Dead, ho selezionato questo brano e tra l'altro tu hai un aneddoto molto particolare. Lui, secondo me, in ottimi rapporti quando arrivò a Boston, pensa, addirittura omaggiato dal più grande, the one and only Larry Legend. Quando Walton arriva a Boston nell'estate dell'85, ricordiamo che Walton ci arriva, come dire, come nobile decaduto, perché sì, Walton arriva da, bella definizione, 6 anni in cui gioca 100 partite, considerato che in 6 anni in NBA se ne gioca quasi 500, sono poche, però è molto contento Larry Bird, perché poi Larry Bird è grande testa del gioco, quindi quando vede un altro con talento ne approfitta, e per far sentire Walton benvoluto, amato dalla squadra, porta tutto il team a vedere Grateful Dead, tutti a parte Danny Ainge. Non sono solito antipatico, esatto. Tanto forte per me Danny Ainge è uno dei miei miti, ma deve essere stato di una simpatia, guarda, simpatico. e tutta la squadra dei Celtics va a vedere Grateful Dead con un Bill Walton estasiato, che poi nei Celtics tra 86 e 87 troverà una seconda giovinezza, vincendo un titolo nell'86 e un sesto uomo dell'anno. Sì, grazie per queste precisazioni. Sai che per me, più che una seconda giovinezza, tra l'altro, pensa che ho contattato, non so se avrà modo, perché lei dice, io ascolto tutti i Breakfast Club tranne il Mood Groove, perché non ci capisco niente. Sto parlando di Silvia Albertazzi. Invece avrei piacere di un suo intervento, se riesco a contattarla, perché una volta presentò un libro in cui l'autore cercava di dare approfondimento a quell'aspetto di percorso di vita in cui in età ampiamente matura non è seconda giovinezza, è un altro percorso. Bello, meglio, più bello. Sì, secondo me, no, va benissimo. È immediato, ecco, se vogliamo dire, ok, dai, lo diciamo in due parole, una seconda giovinezza. No, è come Wayne Shorter nella musica, a 86 anni fa il disco dell'anno per quanto riguarda il jazz, ma non lo fa riprendendo le sue sonorità. No, no, no, lo fa in maniera matura, con lo spazio ad altri musicisti, con un dialogo e un interplay che lo porta ad essere, non dico un altro musicista o un altro cestista, semplicemente una proposta diversa che diventa allo stesso modo di grandissima qualità. Ricordo che quei Boston Celtics del 1986 saranno di cesura, sarà per me personalmente la più grande squadra di tutti i tempi. Vi è un video, adesso voi ne avete la capacità, cercate la sintesi della stagione, dura una dozzina di minuti, di Boston nel 1986, e trovate veramente la tecnica. Cioè, contate le volte in cui la palla va per terra. È vero, perché sono, sono poche. È vero. Poteva provare a fare questa trade, si priva del suo MVP delle Finals 81, quel Cedric Maxwell, forte forte forte, lo cede ai San Diego Clippers per prendere, come ha detto Pietro, un nobile decaduto, ma si è visto lungo, perché col nobile decaduto crea la batteria di lunghi più forte di tutti i tempi. Durante una partita contro i Lakers perse una scarpa e dopo averla raccolta la lanciò colpendo il pallone tirato da un giocatore dei Lakers, ovviamente prese fallo tecnico. Ecco, se vogliamo parlare di scorrettezza, ecco, posso citare. Beh, ma simpatico, questa. Dai. Sì, poi non ha fatto male a nessuno. No, infatti. Ecco. Ha partecipato più volte a manifestazioni di operai. Durante una manifestazione pacifista contro la guerra è stato arrestato e di figure così. Quanto mai ce n'è bisogno adesso? Ha subito 30 operazioni chirurgiche. Ha trascorso circa 2 anni e mezzo bloccato a letto per infortunio. Nel suo corpo sono presenti 21 viti tra caviglie, ginocchia e schiena. E 27 minuti in questo momento, questa prima parte, direi anche per il momento di attualità che stiamo vivendo. Ricordo che lui, oltre che a partecipare, è stato veramente attivo contro la guerra in Vietnam, per cui una figura esemplare, mi permetto di dire. Tra un po' scenderemo sul parquet assieme a Bill Walton per conoscerne caratteristiche, particolarità. Intanto All My Friends Are Funeral Singer, i miei amici cantano i funerali, e noi lo vogliamo per questa prima parte salutare così, il grande rosso Bill Walton. Loro sono Califone, noi tra poco ci sentiamo. Ricordiamo anche che è scomparso a 71 anni, per la cronaca diamo ogni informazione. E poi una caratteristica particolare, John Wooden, quando gli dicono: guarda che alla high school c'è un fenomeno. E da dove? Beh, da vicino a San Diego. Io non credo che un giocatore forte possa arrivare da San Diego. Questa è un'altra. Perché questo è un tema, è il primo, non il primo, ma uno dei primi grandi californiani. Sì, è uno dei, beh certo, The Summer of Love, lui l'ha rappresentata in pieno. È John Wooden che, in maniera anche un po', diciamo così, un po' pregiudiziale, impossibile che da San Diego arrivi un grande giocatore. E invece. Oltre ad essere un santone e un guru del college basket, si vede andare via il miglior giocatore forse tutti i tempi del college basket, Kareem Abdul-Jabbar, e gli arriva per le mani il secondo. Secondo poi circondato da quelli buoni per davvero, Harry Bibby, Jamal Wilkes, Sven Nater, Marcus Johnson. Tutti che giocano tutti assieme per USA, curiosità, si ritroveranno poi tutti nei San Diego Clippers. All my friends. started in the club tonight. Wrapped in your coat and sweater, stand beneath the broken light. Some beautiful hope, and you're gonna like it. Just wait till we get home. Beh, sicuramente il folk americano di Kurt Wagner con la formazione Lamb Chop dal disco Ohio, disco, io ho la discografia dei Lamb Chop nonostante sia musica distante se vogliamo dai miei gusti consueti, ciò non toglie che ovviamente la qualità è immensa. Per quanto riguarda il titolo, I'm thinking of a number between 1 and 2. A proposito, è stato tra i numeri 1? Sì, ci sto pensando, lo è stato. Bill Walton. Say it so it won't go away. Set like stains on my jacket. Ma infatti, scrive Lino, Wooden lo lasciò giù dal pulmino alla prima trasferta causa capelli lunghi. Poi però si sono capiti, Oltre alle vittorie, ricordiamo anche le sconfitte mondiali 1970 a Lubiana. Per la prima volta l'Italia batte gli Stati Uniti con un'entrata in gancio di Bariviera. Il grande Barabba se metteva quei due liberi, vabbè, lasciamo stare. Comunque, Walton era l'acerbissimo pivot di quella squadra. Allora, per determinati aspetti, così non dico statistici, ma di palmarès, lascio la parola a Pietro. Io mi occupo meramente di qualche minuzia, che minuzia non è, perché come vincono l'anello portato in sicurezza a Portland e scoppia la Blazer mania. Il grande rosso ovviamente per tutto l'Oregon diventerà idolo tutti i tempi, anche per le lotte politiche. Oltretutto ricordo le particolarità della pallacanestro: ultimo tiro decisivo per portare alla bella, vincerà la serie 4-2 Portland. L'ultimo tiro è di un grandissimo George McGinnis, la palla arriva a McGinnis da un raddoppiato Julius Erving. Che fa Bill Walton? Uno dice, ma vabbè, ok, non è che abbia fatto, no, però è da queste cose che si vede l'intelligenza cestistica. Lui esegue un perfetto tap out per un compagno di squadra, cioè non prende il rimbalzo in maniera spettacolare, non fa un gesto clamorosamente eclatante, lui con grande intelligenza devia il rimbalzo verso un compagno di squadra, assicurandosi l'ultimo possesso di palla, assicurando la vittoria ai Blazers. Queste sono la particolarità, una delle particolarità del giocatore intelligente. Ovvio, ci vogliono tanti anni di pallacanestro per capire queste specificità. Beh, tutto ciò Bill Walton ne è stato un manuale. Ovviamente tap out, che adesso ovviamente non sa neanche più cos'è, è il contrario di tap in. Il tap in è il tiro corretto a canestro senza toccare terra. Il tap out ovviamente è riportare fuori la palla verso un compagno. Lui ha eseguito tutto ciò, è stato il gesto che ha assicurato l'anello ai Blazer, primo anello ai Blazer. È unico. Ultima cosa, poi vabbè, ok, tecnicamente vi posso dire delle mani d'oro, un tiro preciso, saper giocare anche fronte canestro. Lui inventa due aspetti: la particolarità del gioco in post, cioè non in pivot basso sulle tacche spalle a canestro. Lui sarà fondamentale dal post. tutto ciò per fare ribaltamento, per avere possibilità di visione di gioco, per ribaltare il gioco, per dare scarico ai compagni, per eseguire un piazzato da quella distanza dove lui era precisissimo e mortifero, e oltretutto, e qui mi fermo, ha portato il ruolo di play pivot all'interno del vero basket. Giocatore che più si avvicina a tutto ciò è Arvidas Sabonis, ma arriverà molto dopo. Paradossalmente anche lui ha giocato nei Blazers. Ecco, non cito Jokic, perché quando io vedo giocare uno che alza una gamba tipo cane che fa la pipì e la butta ai cani da 10 metri da canestro, può fare anche 20 su 20 in quel modo lì, ma per me va a sedere. Comunque, bravo Jokic di questo, cambiategli nome, pallacanestro, scusate lo sfogo. A te Pietro, allora, per altre particolarità tecniche. Allora, breve quadro statistico sul grande rosso. Bill Walton in 10 anni scarsi, perché appunto su questi 10 in 4 non mette piede in campo in NBA, riesce a vincere non solo 2 titoli NBA, ma anche a livello individuale un sesto uomo dell'anno, un titolo di MVP, diversi quintetti All-NBA, che è il quintetto che l'NBA stila ogni anno rispetto ai 15 migliori giocatori della Lega, e tutto questo lo fa giocando poco. Sì. Ma non solo giocando poco da un punto di vista di numero di partite, ma anche dal punto di vista di minuti durante le partite giocate. È per forza. Siamo negli anni fine 70, anni 80, dove la media di minuti a partita per un giocatore NBA di alto livello sono 38, 39 minuti, certo. Giù di lì. Bill Walton in carriera non supera i 28. Pochissimo. E in 28 minuti riesce comunque a portarsi a casa tutto questo palmarès di cui abbiamo detto. Bellissima cosa di Bill Walton e del tipo di giocatore che lui incarna è la visione periferica, sì. Ossia il riuscire a vedere ciò che ti succede intorno. In un bellissimo commento riguardo Jokic, tra l'altro, poi Bill Walton, istrionico, personaggio particolare, va un po' per la tangente, dice: Jokic ha visione periferica e le persone che riescono a far accadere qualcosa nel mondo hanno visione periferica. E poi fa l'esempio di Martin Luther King, che non metterei necessariamente la stessa frase di Jokic, ma comunque bello. It's time to put God away. It's time. Paradossalmente, quando vinse il titolo a Borda, fu il vero trascinatore di una squadra costruita bene, ma che non eccelleva di grandissimi giocatori. Riescono a battere una Philadelphia piena di talento, ma molto solista. Ma per me il vero Bill Walton si vede a Boston, perché insieme a quelli buoni ha fatto vedere il più grande basket, secondo me, tutti i tempi, su un parquet. Cioè, quando ci metteva in post basso e smistava il pallone, sia per il backdoor di Larry Bird o per un gioco alto basso tra Michele o Robert Parrish, questa è sinfonia, signori, non si è mai più visto delle giocate del genere, soprattutto andando avanti col tempo. Boston, quando metteva sul doppio pivot o comunque il doppio lungo, era veramente inarrestabile. Cioè, pick your poison, scegli il tuo veleno con cui dovevi soccombere. It's time to put God away. I put God away. Momento così di emozione, io da bostoniano, come ben sapete, ok, l'anello vinto per la stagione 84 contro i Lakers, certo, per me gara 7 di quell'anno è stata la partita di basket più bella che io abbia mai visto. Una piccola citazione anche sul 4-2 ai danni di una imprevedibile Houston Rockets, tra l'altro, anzi mi inchino davanti a loro. Ma una particolarità, partita ormai vinta dal team bostoniano, viene richiamato in panchina Kevin McHale, autore di una partita stratosferica, dal cambio con Bill Walton, e c'è il 5 classico di scambio per l'entrata in campo. Dopo 2 passi, tutti e 2, e sono girati di spalle, ci ripensano e con un sorriso dicono: beh, un 5 alto è troppo poco. Ritornano sui loro passi e vi è un abbraccio strettissimo tra loro due. da, vi dico, da William Piana, ragazzo, lacrime copiose. In playlist anche Bill Callahan, voce degli Smog, con questo brano It's Time to Put Gun Away, è il tempo di mettere via le armi. It's time to put gun away. Ancora che quei rock sotto canestro erano messi bene bene, quindi questo fa capire cos'era la batteria di lunghi di quei Boston Celtics. To put God away, I put God away. Parole forti, anche per quanto riguarda quello di cui spesso sono criticato, cioè un eccesso di entusiasmo. Mi scappa da ridere anche nel fondo schiena quando sento le persone così criticarmi per eccesso di entusiasmo. No, davvero, perché... Ok, va bene, però è giusto così, è una critica costruttiva e la accetto, anzi cerco di migliorarmi. Però in questo caso non ci sono abbastanza parole per questo grandissimo atleta, tanto forte, aggiungo, quanto sfortunato. Parole forti, ma come, il più grande centrobianco di tutti i tempi. Allora, parliamo di 1946, nasce la NBA, il primo giocatore dominante sarà un centrobianco, tale George Mikan. Ma stiamo parlando di proto-basket, cioè qualcosa che dopo cambierà, è sicuramente meglio di quello che c'è adesso, ma è un percorso veramente, come ha definito Lino, molto acerbo. George Mikan, o George Mikan per Minneapolis Lakers, la franchigia allora Minneapolis, sarà un giocatore talmente dominante che, non so, per dire, le locandine a New York recitavano, non New York, questa sera al Madison arrivano i Minneapolis Lakers, no, scrivevano arriva George Mikan. Arriva George Mikan. It's time. Ma stiamo parlando di un proto-basket. Nel 1950 sarà l'arrivo dei giocatori afroamericani nella Lega. Questo è un proto-basket, come ho detto, è sicuramente meglio dell'attuale, ma tant'è. Dopodiché avremo un periodo di pre-rivoluzione, quello di Bob Cousy, Bill Russell, poi inserisco anche Will Chamberlain. Ci sarà un ponte con questo periodo di pre-rivoluzione, di rivoluzione, con Kareem Abdul-Jabbar, che aprirà la strada poi per i Magic Johnson, ma soprattutto per Larry Bird. Questo sarà il massimo momento della pallacanestro. Dopodiché una fantastica, meravigliosa normalizzazione con Michael Jordan, Scottie Pippen, Clyde Drexler, Charles Barkley, Karl Malone, e potrei andare avanti anche ad oltranza. Ecco, in tutto questo contesto, per me il centro bianco più forte è stato Bill Walton. Opinabile la mia omelia, però no, tant'è. Io però sottoscrivo, tant'è, sottoscrivo. To find my peace. Bene, conclusa la puntata del Move to Groove di oggi, dedicata a questa monografia sportiva umana al grande Bill Walton. Facciamo un appello alla grande falciatrice, cioè, se sicuramente stai ascoltando, non è che noi non abbiamo idee, no, perché qui ogni 15 giorni dobbiamo fare un epigrafe, no, noi non vogliamo, cioè noi parliamo di basket, volevamo fare altro, sì, noi vorremmo anche fare altro, però qui discorso lungo, se aprisse mai un'inchiesta su quello che è successo negli ultimi anni di recentissimo passato, però vabbè, sappiamo bene. Io intanto, Pietro, ti ringrazio tantissimo, sei stato un assistant coach che merita l'anello per quanto riguarda la stagione 2023-2024. Siamo qui per questo, peraltro ancora in corso. Ringrazio anche Paolo per il contrappunto da remoto, Lino per il contributo anche portato dal 333-180-9494. La nostra playlist conclude con il Lamb Chop e appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina. Pietro, che dire, io ti aspetto per martedì prossimo, magari per riprendere il nostro quello che avevamo detto, esatto. Hai capito quello che stavamo, se non succede niente, ecco, tanto di scongiuri, quello che stavamo costruendo, per cui al lavoro con il Moved Groove, tra poco col lavoro di redazione, a breve con Liberi Dentro e Di Pè Enciclopedico, puntuali alle ore 7 per il Breakfast Club Letterario di domani. Aggiungo, non perdete il vinile della settimana curato e condotto da Andrea Gozza. Un ringraziamento ancora a Paolo. Pietro, un caloroso abbraccio, grazie ancora, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao, a domani, ciao. You say my name each time you cough, it's a pattern as old as it gets. I'll stay right here till you get back, your concrete white on plastic black, on the statue of the Virgin Mary.